proviamo a prenderci un tazzo di tè dopo, capisco che sei su di giri, però non si devono fare questi tipi di dichiarazioni perché fa male al calcio, perché così allontaniamo la gente dai stadi. Oh, hai detto questo? Sì. Perché non se lo prende lui il tè? Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sono disgustato di quello che ho visto oggi, ma pure quello che ho visto la settimana passata con Genoa e con l'Inter. Se la Juventus è più brava di noi, lascia che vince nel campo, non che gli arbitri aiutano la Juventus. Non che gli arbitri aiutano la Juventus. Siamo stufi di questo andamento perché c'è un po' di tempo che si usa la Juventus in modo sbagliato, perché la Juventus vince coi meriti. Okay. A questo punto è bello ballare, no? È divertente questa lotta a tre. No, è una bella sfida e per noi è anche importante di essere qui a Alta in classifica. La settimana prossima c'è una grande sfida contro il Milan e io spero che noi continuerà a vincere la partita. L'obiettivo è sempre quello di inizio anno, poi l'ho detto, arriviamo alla fine che siamo lì, perché no, non giocarcela, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra, dentro lo spogliatoio si parla di Champions, poi facciamo divertire la gente, bellissima curva, bellissimo stadio e siamo felici. Tonight he extends the incredible record to an 8th Australian Open title. Please welcome up your champion. Definitely my favorite court, my favorite stadium in the world, and I'm blessed to hold this trophy once again. Thank you very much. You better watch me. Oh, è finita così con la vittoria dei Kansas City Chiefs che tornano a vincere dopo 50 anni. Era l'11 gennaio del 1970, di fronte c'erano i Minnesota Vikings. Take a look at this. Non è dato sapere se Rocco Commesso si sarà riconciliato con lo sport guardando il Super Bowl di questa notte, spettacolo peraltro tutt'altro che disgusting, rimontona dei Kansas City Chiefs che dopo 50 anni tornano a vincere contro i 49ers che erano avanti 20-10, alla fine vince Kansas 31-20 e il presidente americano Trump fa le congratulazioni allo stato del Kansas. Peccato che Kansas City, città divisa in due, e la squadra di Kansas City, cioè i Chiefs, siano del Missouri. Buongiorno Giuseppe Cruciani. Ciao ragazzi. Che ciao, bello ciao, averti ciao, qui, ciao. Non solo per il Super Bowl naturalmente. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, ciao, ciao. Mi sono addormentato. Vabbè, è normale. Non era colpa della partita che era bellissima, però no, vabbè, è normale. Del concerto che c'è in mezzo, che sinceramente facciamolo dopo, no? Chi vuole. Io sono passato, ti dico subito, Pier, tu lo sai, sono passato, ero praticamente in tribuna a Torino accanto a 10 metri da Commisso, sono passato dall'ira di Commisso al Super Bowl in poche ore, non so, lo shock è abbastanza. Chissà se l'ha visto poi, tanto non riusciva Commisso, a dormire. Commisso, fra l'altro, a due posti di distanza da Zampini, questa è la cosa. Sì, incredibile, era la triade, Commisso, vabbè, figlio Zampini, la nuova triade, ormai quella non c'è più, c'è la nuova triade, era Commisso, il figlio di Commisso e Zampini. 800-24-0024 è il numero verde, so che state già chiamando e mandando WhatsApp vocali 349-238-666. Beh, comunque ieri c'è cascato, no? L'hanno portato nel trappolone, o è cascato? Chi? Commisso. Nel trappolone più vecchio del mondo. Quale trappolone? Commisso ha fatto quello che voleva fare, cioè dire, è un uomo che ha impostato tutta la sua presidenza con un rapporto viscerale molto stretto con la tifoseria, che si è sentita ridicolmente derubata da dalla partita di ieri, e lui ha interpretato quello che è l'umore profondo della tifoseria fiorentina. È un presidente, seppur proveniente da un'esperienza completamente diversa dagli Stati Uniti, dove c'è, come dire, come sapete, no, il fair play eccetera, è un presidente alla vecchia maniera, per adesso. Cioè un presidente che quando parla ogni tanto è tipo un Anconetani, il problema è che non la tifoseria fiorentina, ma tutta la tifoseria italiana sta contro la Juventus. Ma cioè poi dopo sono accodati tutti gli altri. No, perché dopo giornate come ieri, Pierluigi, lo sai, eravamo in onda, allora si rispunta il gol di Turone, il gol di Muntari. Ma il concetto di tutti è un concetto sbagliato. E così parte la giostra. Tutte le bellissime certezze da una parte e dall'altra che imperversano sui social network, dove sono tutti arbitri delle... Che fa? Non ti sento. Dove si trova? Come? Sono qua. No. Non ti sentivamo. È incredibile. Quindi la censura, allora? Dei miei danni. Allora? Si tratta di censura. Che dicevo? No, dico... mi sono perso. No, ti sto dicendo che sui social network sono tutti arbitri, opinionisti, eccetera. Hanno soltanto tutti verità assolute. Sono d'accordo sul fatto che il commisso interpreta questo ruolo in maniera viscerale. L'episodio chiave della partita di ieri, cioè l'episodio, secondo me, sbagliato della partita di ieri, è quello di un calcio di rigore però a 10 minuti dalla fine di una partita che la Juve stava comunque portando a casa, quindi diciamo di ciccia non ce n'è molta per una intemerata come quella di ieri. E sono d'accordo sul fatto che il commisso, una persona tra l'altro anche simpatica, secondo me, nel la Firenze, questa è indiscutibile. Ma figuriamoci, ma nessuno mette in dubbio la sua volontà di investimento, la sua come dire. Ma il punto è un altro. Tu non puoi dire che sono state fatte delle porcherie, perché non sono state commesse delle porcherie. La Fiorentina non ha perso per colpa dell'arbitro, non c'è un sistema che avvantaggia la Juventus, che dice lui non avrebbe bisogno di queste cose, dunque è tutto sbagliato. Cioè bisogna dire che è tutto sbagliato, cioè che ha detto delle enormi cazzate, punto e basta. Cioè, basta dire che ha detto delle enormi cazzate, cioè non bisogna nascondersi dietro e dire no, ho detto che interpreta la tifoseria. Devi essere consapevole nel merito, anche di quello che dici, no? Nel merito ha detto stronzate, perché andare a parlare ancora di sistema, gli arbitri, non ha bisogno, il calcio italiano, ma di che parliamo? Siamo in un'epoca di una trasparenza assoluta. Però in cui sai che il clima è quello lì, no? Ha detto anche per completezza che era stato, poi magari stasera attività che vedremo gli episodi, era stato danneggiato anche contro Inter e contro Genoa. Però anche ha parlato di questo, sì. È un normale dossier che tutti presentano. A parte che bisogna vedere i singoli episodi, se è vero, non è vero, sì, eccetera. Sì. Entriamo nel campo dell'interpretazione. Ha fatto un discorso più complessivo. Per me, io mi attengo a quello che mi dicono e quello che vedo, quello che mi dicono i miei due movimentisti di riferimento, che sono Marelli in radio, sì, e Cesari in televisione, e mi sembra che ad oggi non ci sia, come diciamo sempre, nessun vento che va in una direzione piuttosto che in un'altra. Si è parlato lungamente, non è vero che non se ne è parlato. Ieri sera c'erano gli juventini, dicevano: non avete parlato di Inter-Atalanta. Di Inter-Atalanta se ne è parlato per giorni, dell'episodio di Lautaro. Assolutamente. La settimana dopo probabilmente il gol di Lukaku, anzi secondo Cesari certamente il gol di Lukaku andava convalidato. Cioè, io continuo a non vedere, lo dico sinceramente, però capisco che in questo mondo qui devi essere per forza... No, non è vero, ma bisogna dirlo, che non c'è nessun vento a favore di nessuno. Certo, ma per me ad oggi è così, Ma non è che ad oggi... Però sai che il clima è questo. Ad oggi, alla 22esima giornata del campionato, voglio dire, anche da un punto di vista, diciamo, di statistica, alla 22esima giornata di campionato, per quello che vedo io, non c'è nessun vento, nessuna diciamo rilevanza statistica che porti da una parte piuttosto che dall'altra nella sfida tra le tre squadre che stanno lottando per lo scudetto. Però tu sai, Pierluigi, tu sai perfettamente, almeno dovrebbe sapere, o commesso qualcuno dovrebbe dirgli, che è chiaro che se fai dichiarazioni come quelle che hai fatto ieri, lui ha presentato dossier pro Fiorentina come fanno tutti, no? E ci manca questo rigore, quell'altro e quell'altro, tutti presentano il loro dossier e va bene. Però quando cominci a dire grosso modo è sempre così, è disgustoso, la Juventus vince perché ruba, tu sai perfettamente che social o non social, certo, servi pecoroni, ci scrivono bla bla bla bla, no, ma... su parte la solita giostra con i cavallini, Turone, Muntari, Giraudo, la Juve che ruba, infatti eccetera, i social eccetera, non c'entrano niente in questo Fiorentina. Caso, ma in questo caso i social non c'entrano, scusate, adesso voi insistete ancora con questi social, ma i social in questo caso non c'entrano nulla. Qui c'è un presidente che fa parte di quello che lui chiama sistema, il quale va davanti alle telecamere dopo una partita che è finita 3-0, che è finita 3-0, in cui c'è un rigore dubbio perché l'arbitro è andato a rivederlo. Poi parleremo di questa cosa qua, perché l'arbitro va a rivedere e dunque in qualche modo, anche se forse non va a rivedere per il contatto, ma va a rivedere per se è dentro o fuori, comunque il fallo lo rivede. Ma più di questo, cosa si vuole? L'intervento di un organo esterno dell'ONU, cioè oltre il VAR in cui l'arbitro va a vedere, cosa vuole di più commisso? Cosa vorrebbe? L'intervento delle Nazioni Unite? A un certo punto non si capisce. È che l'episodio a favore della Juve non è l'episodio a favore di una squadra di calcio, è qualcosa di più e di diverso. Questo mi sembra evidente. Scusate, finisco il ragionamento. Qui abbiamo un presidente che fa parte del sistema che lui stesso attacca, perché ne fa parte, il quale va davanti alle telecamere a dire che la Juventus fa delle porcherie, che la Juventus è parte di un sistema che la fa vincere non perché non per motivi, insomma, che non hanno niente a che fare col calcio, ma hanno a che fare con altre cose, che non ha bisogno di aiuti perché ha 350 milioni di ingaggi dei giocatori, eccetera eccetera. Rimette sul terreno delle discussioni una cosa che sembrava morta e sepolta, che era la famosa anti-juventinità, l'anti-juventinismo militante, tutte di moda, queste cose qua. Ma sempre di moda. Va sempre di moda. Diciamo che col VAR uno pensava di averlo un po' eliminata questa cosa qua. Invece non ci vuole, non basta nemmeno il VAR. Allora chiamate l'ONU. Chiamate l'ONU e ci mettiamo d'accordo. Cioè decide a New York una centrale estranea da tutto, che in mano, che ne so, a Trump, a qualcun altro, che decide se quello è rigore o non è rigore. Poi Trump cancella. No, ma mi fa impazzire questa cosa. Hanno voluto, giustamente, c'è il VAR per andare a rivedere. In questo caso, tra l'altro, è andato a rivedere, perché la polemica è perché non vai a rivedere. È andato a rivedere, il fallo l'avrà visto. E dopo che l'hai visto, dai ugualmente rigore. Contestabile, allora... per me non è rigore, te lo dico. Per me non è rigore. Detto questo, se però il discorso non è neanche tanto sui singoli episodi, è sulla reazione con cui vengono accolti i singoli episodi. Si tratta di un errore arbitrale che non ha particolari motivazioni, l'arbitro l'ha vista così, l'ha rivista il VAR, ha sbagliato due volte, però il punto non è quello, il punto è la Juventus, Pierluigi. Ah sì? No, ma il punto è, allora, io dico sinceramente, poi è chiaro che tutto ciò che riguarda la Juventus e in generale le grandi squadre fa infinitamente più notizia, giusto o sbagliato che sia, e ho trovato normale, francamente, che Nedved abbia risposto, perché insomma, certo, ma è, chi... è nella logica delle cose, nel momento nel quale è stato tirato in mezzo. Però commisso ha fatto uno sfogo non molto diverso da quello ha fatto Petrachi dopo Roma Cagliari, cito il primo esempio che mi viene in mente. Ha fatto uno sfogo dopo una serie di partite, no. E poi sicuramente ci sarà la rivalità Fiorentina-Juventus, ci sarà la vicinanza ai tifosi, eccetera. Non sono d'accordo, e non è la più assoluta. In riferimento a quello ha detto: la Juventus è forte, è fortissima, la partita la vince uguale, non ha bisogno di questi aiuti. Però ha fatto un riferimento ad altre partite e a una situazione di altre partite. Questo a me è quello che ho sentito io. Però poi, scusa, c'è una differenza. Poi, se poi tutta Italia divampa il dibattito su Juve sì, Juve no, questo è un altro discorso. Però è normale che divampi, visto il clima, è normale che sia così. Carlo, scusami, c'è una differenza fondamentale. Petrachi ha fatto un discorso sugli errori che ogni tanto qualche dirigente fa, è d'accordo per un po' per difendere la bandiera, il brand, perché per forza bisogna dire qualcosa quando secondo qualche dirigente c'è un errore palese. Però c'è una differenza, non è che Petrachi è una persona ragionevole, non è un pazzo. No, ma io dico Petrachi per dirti che spesso i dirigenti, quando c'è una serie di situazioni che si accumulano, dicono adesso basta, poi è un malcostume. Noi vogliamo dire che la situazione della Fiorentina, dei punti della Fiorentina non sono questi, dovrebbero essere altri perché ci sono stati gli errori arbitrali, ma non diciamo cazzate. Però Commisso ha fatto riferimento ad altri errori uguali contro l'Inter. Beh, ma questo, questa è una pratica normale, quante volte abbiamo visto. Ve lo dico sinceramente, la sostanza secondo me di ieri è evidente, cioè l'episodio, l'errore c'è su una cosa che avviene all'80° minuto, su una partita che la Juve già stava vincendo. Errore. Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che quello non fosse rigore. Tengo a precisare, Giuseppe, su una, però anche sul fatto che stava 1-0 all'80°, cioè adesso non abbiamo detto, la palla di vetro. Ma l'ho detto, anche la sicurezza sul fatto che non sia rigore. Adesso io, per me non è rigore, io sai che sui rigori sono molto, cioè no, per me sono pochissimi rigori. Dai. Per me è dubbio pure il primo, figuriamoci. Cioè per me è in dubbio pure il primo. Per come io interpreto i falli di mano, eccetera. Guarda, Giuseppe, il primo, guarda, ho letto oggi la copiata della Gazzetta, perfetta, secondo me, sul primo rigore. E lo ribadisco, quello che ho detto ieri, l'arbitro vede l'intervento col braccio destro. Che ha tagliato il corpo attraverso il VAR, quello braccio sinistro. E dicono, guarda, che non ha preso il braccio destro, ha preso il braccio sinistro. Ci sono queste regole qua. Il rigore, punto. Però il secondo rigore... È pochissima roba, per me non è rigore. Un'altra cosa che va detta, ce l'ha spiegata anche Marelli ieri, per cercare di fugare un po' di dubbi, non è il discorso della posizione dentro o fuori dall'area di rigore, perché i controlli metrici li fa direttamente il VAR. Quindi se tu chiami Pasqua a vedere le immagini, lo chiami per valutare il contatto, non lo chiami per valutare la posizione. Mi sembrerebbe anche improprio quello che è successo al derby, dici tu. questa è la norma, cioè voglio dire, sul contatto, tutte le situazioni metriche vengono valutate con molta più calma dagli arbitri del VAR dentro la loro stanzetta. Quindi la discussione non è stata quella sulla posizione dentro o fuori dall'area di rigore. Lui è andato a rivedere il contatto, ha considerato che quel contatto comunque c'era, oppure ha comunque considerato il fatto che non avesse commesso un chiaro ed evidente errore come da protocollo, e ha confermato il rigore. Rigore con tutto quello che ha conseguito, anche perché lui ha valutato l'ingresso in area di chi era Betancourt. Ha valutato come ostacola. Io sto cercando di capire l'arbitro, perché siccome non penso che l'arbitro sia telecomandato da qualcuno che sta alla continassa, penso che l'arbitro abbia interpretato quella cosa come un fallo da rigore. Allora, come lo devo interpretare quel rigore lì? Lo interpreto come un giocatore che cerca di entrare, lanciato verso la porta, e che viene ostacolato da un difensore della Fiorentina. Per me, ti ripeto, non è rigore, però se devo dare credito all'arbitro, e gli do credito, e soprattutto secondo me in buona fede, penso che l'arbitro abbia deciso per il rigore all'inizio, si è andato a rivedere e ha pensato: beh, la mia prima decisione è quella, oppure la... non voleva essere sconfessato dal VAR nella testa di Pasqua. Non c'entriamo e non abbiamo neanche tutto questo interesse. Michele, fammi sentire gli ascoltatori. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno, io telefono da Vicenza, sono tifoso Viola. Io do pienamente ragione a Commisso, ho ascoltato i vostri commenti e scusatemi se mi permetto, siete poco obiettivi, perché io ieri ho guardato la partita, ho visto tutte le volte che i giocatori della Juve si lasciano cadere in area, Pjanić si è buttato per terra senza essere minimamente toccato. Dunque? E non vengono mai ammoniti una volta. Ah, vabbè. Dunque, cosa dico? No, dunque, che c'è dietro? Dico che ci siano se pensi una cosa del genere, devi pensare anche che ci sia una cosa, allora che l'arbitro abbia una cosa. Cruciani, trovami un torto che ha subito la Juve quest'anno, trovami uno solo. Certo, il rigore di Lecce è discutibile, ma non è un torto. Io non parlo di torti, parlo di situazioni discutibili. Dai, su, comunque, se sei convinto che c'è, è una vita che inizia, va bene, è una vita, benissimo. Ma vedi, ma il problema è questo, torniamo sempre lì, è una vita che in Italia, torniamo alla famosa giostra dove stanno Turone, Montari, Moggi, Giraudo e tutta questa gente qui. L'arbitraggio contro la Juve è sempre perfettamente imperfetto. Vedi, loro rubano, non ci sono errori. L'intervento di Commisso è questo, provoca questa cosa, è questo qui che sto dicendo. C'è un sistema dietro. Esatto. Non è l'episodio, dell'episodio alla fine chi se ne frega. Scusate, io capisco, no, invece a me, perché a me adesso di parlare di massimi sistemi sulla storia del calcio, a me personalmente... Però il dibattito è questo, Pierluigi. Si può anche parlare di pallone. E sulla partita di ieri sicuramente Pjanić rischia il giallo in quella situazione lì, è lui che va addosso al Cutrone, situazione non facilissima da giudicare in tempo reale, ma sicuramente non era calcio di rigore. Va anche detto, per me non è rigore, l'ho detto anche in diretta, che nel primo tempo sullo 0-0 c'è un contatto fra Cristiano Ronaldo e Igor, sul quale anche lì si può discutere. Ti ripeto, secondo me, l'ho visto e sono d'accordissimo con quello che ha detto Marelli ieri sera, è più Cristiano Ronaldo che cerca il contatto, quello che penso io, non so che ne pensi Giuseppe. Però se vuoi indirizzare la partita, rigore glielo dai lì. Appunto, cioè voglio dirti, per me io non avrei dato quel rigore, e fra l'altro è chiaro che gli juventini la pensano in maniera diversa. Cruciani la pensa come me, Zampini, l'ho sentito, la pensa come me, da tifoso della Juve non avrebbe dato quel rigore, però voglio dire, anche quella situazione lì, volendo, si può discutere. Sì, però tutto giustifica la parola porcherie. Tutto giustifica la parola porcherie. No, perché il punto alla fine è questo, e poi quello che ne discende. La parola porcherie è utilizzata. Ma il problema è quello. Però il problema è quello, perché viviamo in un ambiente in cui io ne sono certo. Quelli che non sono juventini e che detestano la Juventus vivono in funzione dell'arbitro che arbitra la Juventus. La perversione vera è questa. Va bene, ma noi invece, almeno noi, vorrei A, parlare di pallone, B, se devo parlare di Moviola, parlo degli episodi, non parlo del gol di Turone o non parlo di cose di 20 anni fa, di 30 anni fa, parlo di quello che ho visto, quello che continuo a vedere. È un campionato nel quale purtroppo ci sono tantissimi errori, nel quale il VAR, e questo è il vero tema, non ha tolto la polemica, anzi l'ha aumentata, perché secondo me un rigore come quello di ieri del 2-0 tu lo puoi dare in tempo reale, ci sta nell'adrenalina dell'arbitro, poi quando l'arbitro lo va a rivedere al monitor, secondo me quello è un rigore che non puoi più dare, perché secondo me non c'è quel rigore se lo rivedi al monitor. No, ma anche secondo me non c'è, ma anche secondo me non c'è. Quindi questo secondo me, a me Juve, Inter, Milan, cioè, me ne può fregare di meno. Quello che mi interessa, quello che mi piacerebbe è limitare nei limiti le polemiche. Il VAR speravo che potesse, ma se l'arbitro, va a rivedere, mettiamo che sia andato per quello come dici tu, l'arbitro va a rivedere e si convince di non avere sbagliato, che quello è un ostacolo a Bentancur lanciato in porta, esatto, è un ostacolo. Si convince di questo, è una decisione che per me non è rigore, ripeto, però non è che è una porcheria. Non ma certo, ma siamo d'accordo. È una decisione dell'arbitro presa al VAR, cosa che tutti volevano prima. Ti ripeto. Io l'ho detto ieri sera: se uno comincia a credere alla malafede, andiamo a fare altro. No, ma l'ascoltatore di prima quello diceva. Vabbè, ho capito, ma ognuno pensa quello che vuole e c'è la libertà di parola. Io continuo a dire che da quello che vedo in questo campionato, da una parte e dall'altra, anzi da tutte e tre le parti, perché poi c'è anche ovviamente la Lazio che è il grande protagonista, io non vedo nessun vento che va né in una direzione né in un'altra. Senti, hai sentito, dacci qualche notizia, Pierre, dacci qualche notizia, hai sentito Cairo per caso, no? Sentito il signor Cairo, che ne so, magari per il cambio in panchina? Mi sembra inevitabile perché al di là delle sconfitte, La squadra che è totalmente perso, il psicologico della squadra è totale, ha perso il filo. D'altra parte, una settimana fa dicevamo, ci interrogavamo sul fatto, ma una sconfitta 7-0 in casa, in quel modo, con quelle proporzioni, può essere derubricata a incidente di percorso? I fatti dimostrano che non è così. Intanto Nicchia ha detto che gli arbitri italiani sono disgustati da quanto è stato detto ieri da Commesso. Queste le parole di Nicchi, responsabile degli arbitri. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dica. Allora, chiaramente col VAR non è che si possono fare delle cose clamorose, no? Però le sfumature sono fondamentali. Vi faccio un paio di esempi. L'anno scorso Vecino ha fatto un fallo che poi il VAR ha chiamato l'arbitro, un fallo che l'arbitro ha dato il giallo, il VAR l'ha chiamato e gli ha dato il rosso, buttato fuori. Stessa cosa, Barella, questo gli ha fatto un fallo, il VAR ha chiamato l'arbitro, questo qua gli ha piegato la gamba che non so come non si sia rotta, l'hanno vista tutti, e l'arbitro gli ha confermato il giallo. Per dire, una. Domenica scorsa Young viene buttato per terra con un fallo clamoroso, era partito come una scheggia, quell'altro non ha neanche visto la palla, neanche detto niente, tutto è andato che non era rigore. Quello di ieri della Juve, che era mezzo di quello di Young, rigore dopo che l'ha visto al VAR. Young altra clamoroso, cosa, dunque, altra cosa, dunque che conclusione è Claudio, però allora il discorso è questo. Qual è la conclusione? Allora, non capisco, possiamo andare avanti per episodi finché vogliamo, però a favore di uno e a favore dell'altro. Allora, posso cioè, tu stai dicendo che nonostante il VAR, scusami un attimo, tu stai dicendo che nonostante il VAR, andiamo al sodo, che gli arbitri trovano comunque il sistema per aiutare la Juventus, questo vuoi dire? Ma allora Barella gli ha piegato la gamba, l'ha visto tutti, gli ha piegato la gamba che non so come si sia rotta, il VAR ha chiamato l'arbitro perché gli aveva dato il giallo, Barella, gli ha confermato il giallo, quella è una vergogna per me. È certamente un errore, vergogna o non vergogna non lo so, però le chiedo questo, la Juventus ruba? Allora Claudio, la Juventus vince gli scudetti perché ruba? No, io voglio sapere questo. No, sì o no? Si arriva a un punto di distanza, le sfumature sono perfetto, fondamentali. La Juventus ruba gli scudetti. Anni, a parte il caso allora, Perugia, dove abitava Collina, se in 30-40 anni, quando si arriva al photo finish, vince sempre la Juve, ci sarà un motivo? Sì, ci hanno vinto 35 scudetti, è una coppa di campioni solo. Io credo anche che la Juventus sia anche l'alibi perfetto. Però perché se vinci lo fai contro di loro, contro il potere, contro il palazzo, se perdi è perché non puoi abbattere il palazzo, se no perdi pure in albergo come ha fatto Sarri. E allora di che cosa stiamo parlando? La discussione innescata da Commisso ieri è questa qua, esatto. Però va bene perché ci divertiamo, per carità, però questo è il risultato, della discussione innescata da Commisso ieri parlando di porcherie e di sistema, è quello che è l'interesse, il core business della domenica di molti italiani è l'arbitro che arbitra la Juve. Pier? Ma sì, non è che in occasione di Inter-Atalanta non ci siano state le polemiche. Secondo me è un campionato molto, cioè io non farei un discorso di Juve o non Juve. Dopo Inter-Atalanta si è discusso per ore, ci sono stati fermi immagine, la cosa, se ne parla continuamente. Io ripeto, convinto, secondo me ieri è andato lungo, soprattutto in una partita dove l'episodio, che ripeto, secondo me, dove l'arbitro ha sbagliato, però è avvenuto sull'1-0 all'80esimo, quindi non è un episodio. Poi, perché da nessuno sa come sarebbe andata a finire, la Fiorentina ha la legittima aspirazione e poteva avere la legittima speranza di poterla pareggiare la partita, però insomma ti dico, a me sembra quello che ho detto fino adesso, cioè che si continua a sbagliare, che ci sia una clamorosa discrezionalità arbitrale, che il VAR abbia aumentato implicitamente l'aspettativa delle persone di diminuire le polemiche, e che invece si vada nella direzione contraria. Il resto del dibattito adesso, francamente, dividere, far intervenire gli ascoltatori pro Juve o anti Juve, francamente mi interessa poco, perché starei sulle cose. Sul caso di Young, io di Young non avrei dato il rigore, l'ho detto una settimana fa, Marelli l'avrebbe dato, Cesare non l'avrebbe dato, è una situazione. Però non avrei dato il rigore, e quell'ascoltatore che dice è un rigore clamoroso, vedi, infatti, come si vedono le cose in modo vagamente diverso a seconda delle lenti, dovremmo invitare al ragionamento. No, poi sono d'accordo che spesso da parte degli stessi addetti ai lavori non ci siano cose che vanno in questa direzione qui, ma bisognerebbe invitare alla misura. Ma mi rendo conto di essere in minoranza, e quindi amen. Mi rendo conto che se oggi dobbiamo fare una puntata di un'ora per discutere di questo, no, va benissimo, no, abbiamo facciamo, quasi, no, abbiamo, ascolto, però, abbiamo quasi finito. Però adesso sono un sacco di ascoltatori che anche amato. E quello che proviamo a fare con Cesare tutte le settimane, stiamo sugli episodi, e proprio in queste ultime giornate è capitato spessissimo di vedere situazioni opposte, perché Lecce-Inter era la settimana dopo Inter-Atalanta. Lecce-Inter è la settimana dopo Inter-Atalanta. Detto questo, in Inter-Atalanta sicuramente c'è un episodio importante, clamoroso, sull'auto di Lautaro Martinez che non viene giudicato. Il Lecce-Inter si lamenta l'Inter, la settimana dopo ci sono le problemi. Insomma, voglio dire, quello che ti ho detto dall'inizio, cioè secondo me si continua a sbagliare tanto, ma soprattutto c'è tantissima discrezionalità. Perché se in qualche caso devo dire anche di ignoranza del regolamento. Ma quella è la discrezionalità. Vabbè, ultimo Alessandro da Milano, poi salutiamo Giuseppe Cruciani, con cui parlerò di Super Bowl poi in separata sede. Alessandro, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io sono tifoso della Juve, e a volte mi sento un po', quando succedono quelle volte che può avere un minimo di vantaggio la Juve, sempre frustrato da tutti contro la Juve. Cioè io preferisco a questo punto che la Juve, se veramente si creerà sto campionato europeo, va fuori dalle scatole a giocare un campionato europeo, e buonanotte al sé, così almeno magari vince la Fiorentina, vince, e loro poi non vogliono, già si lamentano della Juve, ma non vogliono che se ne va. A parte che non è possibile che se ne vada l'Europa, mi sembra che di polemiche ce ne siano pure. C'è un video bellissimo di Mourinho, magari poi ne parliamo. Sì, quello anche di Mourinho è meraviglioso. Anche Guardiola, ragazzi, anche Guardiola, che insomma storicamente era uno di quelli più che la prendeva più con filosofia. Quindi, per carità, è parte del gioco, è l'adrenalina. Però io ripeto, un conto è la discussione tecnica su quello che succede, e io lì sono pronto a farla, la discussione tecnica sugli episodi, il ragionamento sui massimi sistemi, questo francamente mi appassiona di meno, ecco, lo dico sinceramente. Appassiona di meno. Poi tutti capisco quanti... la sindrome d'accerchiamento, lo so. Non c'è niente da fare, il clima è questo, e nel momento in cui, al di là degli episodi che potrebbero essere risolti in 5 minuti, punto e basta, è quello che succede dopo, sono quelle dichiarazioni che ci riportano indietro a fino a dove noi sappiamo, e da lì non ci schioderemo mai, anche se tra un paio di settimane, massimo tre, preparate gli elmetti perché sapremo molto. Derby di Milano, Lazio-Juventus, il 1 marzo Juventus-Inter, il 2 marzo io non vengo a lavorare, ve lo dico da adesso, ve lo dico subito. Adesso, per 2 settimane, anche Lazio-Inter. Lazio-Inter, certo, voglia. Insomma, però guarda, bene, la Lazio raccoglie consensi trasversali. 28 secondi di pallone, posso fare questa cosa così rivoluzionaria? Sì, poi andiamo avanti, c'è la borsa e poi andiamo avanti. Secondo me le prossime 3-4 settimane sono invece importantissime. Ma perché c'è uno strano sviluppo del calendario di quest'anno, poi la Lazio probabilmente non pensava di essere lì, però c'è una serie di scontri diretti adesso, ravvicinati, quindi paradossalmente l'Everest del campionato è adesso, noi fra 3 settimane, 4 settimane avremo un'idea molto più precisa. Guarda, di quello che succederà. Circoletto rosso su Lazio-Inter domenica, quell'altra. Circoletto rosso su tutto, anche su Lazio-Verona mercoledì. Lazio-Verona mercoledì, poi Parma-Lazio, e a quel punto voglio vedere dove era Lazio, circoletto rossissimo intorno a Lazio-Inter la domenica successiva. Beh, anche il derby domenica, insomma. Anche il derby domenica. Anche se è una favorita chiara, mi pare. Grazie Giuseppe. Ciao. Ciao. Ci sentiamo dopo la borsa. Il rigore su Ronaldo, quello ce lo dimentichiamo. Il rigore su Ronaldo nel primo tempo, quello ce lo dimentichiamo. E vai così. Fa male al calcio. L'unica cosa che fa male al calcio è la Juventus. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarci. Convocati. Ah, parlano proprio quelli della Fiorentina, che hanno Chiesa maestro dei tuffi in area. C'è da dire che gli altri hanno imparato bene. Bravi, bravi. Comunque Eriksen nelle movenze ricorda il miglior Ciriaco Sforza. Addirittura Ciriaco Sforza, Eriksen. Beh, insomma, è arrivato 2 giorni fa, era un fenomeno, adesso è Ciriaco Sforza. Tra un po' la maglietta la metteranno Aldo Giovanni e Giacomo per il prossimo film. Ciao Evaristo Beccalossi. Ciao. No. No, a me, di pallone, A me un po' ricorda Beccalossi. Ti dico, di pallone, un minuto. Beh, è obbligatorio ricordare sempre qualcuno. È obbligatorio, sì. È prescritto, è previsto dalla legge, sì. Esatto. Ma dai, no. No, è sempre simpatico. Senti. Non mi piace perché è un calcio diverso. No, dai, adesso vanno 3.000 all'ora. Le solite frasi fatte, no? Di ricorda. Si ricorda, i giocatori, quelli che arrivano, devono essere protagonisti. E protagonisti in un caso completamente diverso dagli anni 80. Quindi, certo, cioè con una sola costante, poi giuro parliamo di pallone, che tanto la Juventus ruba e quindi gli scudetti li vincono sempre loro, no? No, non ho sentito, c'era l'interferenza. Anche... no, parliamo di pallone. La costante è quella, la costante è quella. No, ma ovviamente è ironico quanto sto dicendo perché non ci crede nessuno. Parliamo di pallone, a contento Pardo e anche me stesso, per la verità. L'Inter è cambiata quando è entrato Brozovic, altro che Eriksen, mica Eriksen, i problemi eccetera. No, è cambiato, è un dato di fatto, ma anche Sanchez, l'ho visto bene che la partita prima non stava benissimo, quindi no, la cosa positiva Brozovic in quel ruolo lì veramente sta facendo grandissime cose e si è visto proprio il punto di riferimento vero dell'Inter, è lui. E poi le alternative, cioè questa prima fase dove l'Inter secondo me ha fatto grandi cose per tanti motivi, cambiare assetto tattico, tanti giocatori e cercare di essere competitivo, di andartela a giocare con la Juve, secondo me è tanta roba. Adesso con il mercato di gennaio hai completato un po' una rosa che puoi permetterti di fare delle scelte e non è poco. L'ultima cosa che ti dico la Juve è sempre la squadra da battere, perché negli ultimi anni, se vai a vedere in quel periodo qua, noi abbiamo, se la Lazio parte il Verona nel recupero, è seconda in classifica, 2 punti dalla Juve e l'Inter 3 punti, quindi avere 3 squadre in lotta per la vittoria del campionato, io credo che faccia bene a tutti, è tanta roba. È tantissima roba, tanto più che dopo, appunto, dicevo prima, ci sarà quel Lazio-Inter che è uno dei primi snodi fondamentali del campionato. E la Lazio a me fa impressione, perché ieri l'ho guardata con attenzione. Io ho degli amici laziali, ovviamente ho molti amici di laziali e romanisti in prevalenza della mia infanzia, e faccio quasi un training autogeno, perché è come se avessero continuamente paura, forse perché non c'è l'abitudine a vivere questa altissima classifica, ma la squadra secondo me è molto più forte di quella che è la percezione che c'è in giro, e l'ha dimostrato anche ieri, perché ieri poteva essere onestamente una partita complicata dopo un derby comunque giocato male, dopo l'eliminazione in Coppa Italia, e la Lazio ha giocato esattamente come ha giocato con la Samp due settimane prima, cioè è scesa in campo, ha fatto il primo gol dopo due minuti, ma ha fatto 2-0, cioè ha proprio dominato la partita, e secondo me questa capacità in questo momento ce l'ha solo la Lazio, non ce l'ha né la Juve né l'Inter. Poi se basterà per durare, io questo non lo so, è chiaro che la Lazio è appesa a qualche incognita in più, ad una rosa un pochino più corta, però ad alcuni giocatori fondamentali, ieri citavamo con Vocalelli Acerbi, e sono perfettamente d'accordo, in questo momento è probabilmente il miglior difensore centrale del nostro campionato, e poi c'è quel Luis Alberto che quando lancia Immobile mi sembrano tanto Beccarossi e Altobelli. Sì, ma infatti forse l'hai chiesto a Becca. Ancora quei ricordi. Vado avanti così, non ti preoccupare. Vado avanti anche domani quando ci vediamo. Poi vi dico come. Sì, ma siamo insieme domani sera. Domani sera siamo insieme a Cernusco sul Naviglio, nell'ambito di questo Fair Play Festival, figurati che Fair Play, in cui contrapporrò la curva dell'Inter, Beccalossi, Dalai, il mio amico Mauro Meazza, alla curva del Milan con Umberto Zappelloni e compagnia, e ci divertiamo un po'. A proposito di derby, mi sembra che ce ne sia uno domenica che però ha una chiara favorita, Evaristo. Il Milan. Eccola. Vabbè. Anche lì ormai. Per la storia che il derby lo vincono sempre quelli sfavoriti, è questo che. Ma non sai mai cosa è stato fuori dal derby, perché. Un'idea ce l'ho. Ho avuto la fortuna che di giocare in Parma. E ancora oggi c'era dei derby che insieme arrivavi lì, ma stiamo bene, massacriamo, andiamo di qua di là, non pigliavi mai. Dall'altro diceva, oggi disastro, adesso stava fuori. È talmente una partita fuori dagli schemi che non veramente non riesci a. L'unica cosa puoi decidere come giocarlo a livello tattico. Perché l'anno scorso, se non ricordo male, c'era il Milan in un momento di euforia, sì, vero, e l'Inter vero, era in difficoltà, vero. Qualcuno ha fatto partire un messaggio e dire proviamo a giocare una volta per non perdere, e lì Spalletti impostò la gara come per dire adesso aspettiamo e vediamo, e l'Inter vinse quel derby, da lì ha preso la spinta per arrivare in Champions League, e il Milan che era in un momento di euforia perdendo il derby iniziò con qualche problema. Sì, questo è verissimo. Questo è tanto di fatto, perché sai, dici andiamo a attaccare, cosa facciamo, aspettiamo, fai tutti quei ragionamenti lì, quindi decidere cosa fare, e poi è fuori dagli schemi, può succedere di tutto. Sì, però la distanza è tanta in questo momento, giocherà Ibrahimovic, gli passerà l'influenza, la distanza è tanta, ma l'Inter ultimamente non in classifica sul campo, Pier. No, ma io dico l'Inter ultimamente ha pareggiato delle partite contro squadre di livello molto più basso di quello del Milan, con tutto il rispetto, e anche ieri a Udine comunque cioè, appunto non ha il passo della Lazio in questo momento l'Inter, ha un passo diverso, poi detto questo le soluzioni le trova Lukaku. Vabbè, ho finito gli Lukaku. Aggettivi. Sì, però ho finito gli aggettivi. Anch'io. Straordinario. Vorrei capire, però, se è entrato. Se finalmente gli interisti ha messo d'accordo davvero tutti. Perché fino a non so se ieri sera è cambiato qualcosa, ma fino all'altro ieri c'era ancora chi diceva: sì, no, Lukaku, dai. Però. Non segna nelle partite importanti, nei grandi match, però a Lukaku è brutto da vedere, sgraziato, eccetera, eccetera. A me piace da morire. Atteggiamento compreso, perché è uno che vive come si deve vivere questo gioco, cioè lo butti giù, si rialza, va, ricomincia a giocare, non dai in escandescenze praticamente mai. Mi piace tantissimo anche come personaggio. Tu Pierluigi lo conosci bene, a te Becca? Non toccatemi Lukaku, perché cioè, io ho subito delle critiche da qualche mio estimatore, che ne ho ancora non tanti ma pochi, mi meraviglio di te che ti piace Lukaku. Ma io quando ho visto le prime partite che faceva Orsi, aveva Lautaro sotto l'ascella, l'altro attaccato sul fianco, l'altro sì, compagno, sì, sì. Cioè ti dava un'impressione di avere un gigante buono che si fa voler bene dal gruppo, dallo spogliatore, e a livello calcistico, anche se a volte sbaglia delle cose semplici, è quello che tiene la palla, fa salire la squadra, apre, fa gol, magari qualcuno dice ecco non sa dribblare. Due minuti dopo ti fa il Cortolino che punta l'uomo e la mette nell'incrocio dei pali. Quindi questo è Lukaku, a me fa impazzire come atteggiamento e come giocatore. Quindi gli altri che si permettono, pure dicono giustamente o incisamente la loro opinione, non me ne frega niente. Per me è stata una piacevolissima sorpresa e mi piace un casino. D'accordissimo, ecco perché chiamo il Becca tutte le volte che succede gol, qualche gol facile lo sbaglierà sempre perché sì, è la sua natura. Non è neanche Van Basten esteticamente, voglio dire, se vuoi guardare il linguaggio del corpo, quella roba lì, però è un giocatore super. Io ribadisco dei concetti fondamentali, la quantità di cose che lui fa al di là dei gol è incredibile, cioè oggi leggiamo 20 gol in stagione, ma... oltre ai 20 gol, no, oltre ai gol c'è di più, parafrasando la vecchia canzone. Ecco, quindi, e poi è vero che qualche gol, secondo me, se lo mangerà sempre qualche gol clamoroso, perché è nella natura di un attaccante talmente generoso e talmente di movimento, certo, che per il famoso discorso del serbatoio delle energie magari sottoporta almeno l'utile di altri. È un po' il ragionamento che si può fare anche con Dzeko. Dzeko, un altro, vi ricordo i tempi di Spalletti, no? Dzeko è un attaccante straordinario, credo che non ci siano discussioni, che tende a spendere delle energie per lavorare con la squadra, è chiaro che qualche volta sottoporta e può essere appannato. Comunque è un duello, guarda, è un duello a tre meraviglioso, fra tre squadre fantastiche, e è azzeccata la copertina di oggi della Gazzetta, secondo me. Nel senso che mai come in questo momento queste tre squadre hanno tre leader, tre giocatori che si prendono la copertina, perché sono tre straordinari diversi. Ovviamente Cristiano Ronaldo è un'altra categoria, no? Non c'è da discutere, sono tre attaccanti però diversi. Dal punto di vista dell'efficacia diversi mica tanto, perché il peso specifico della squadra scusa se mi servisco poi anche come caratteristiche sono tutti e tre che si muovono molto, non è la classica prima punta, perché Ronaldo va dove vuole. Immobile, anche lui spende tante energie perché gioca per la squadra e fa i gol. Lukaku è la stessa cosa, perché non è che classica prima punta che sta là davanti e non si muove più, se fa giocare la squadra torna, quindi sono giocatori a tenere la massima considerazione, perché sono completi. Certamente. Beh, ci vediamo domani alle 18 a Cernusco. Alle 18, se mi mandate anche la via, sarei così comunicazione. Sì, Sara, ti mandiamo anche il taxi, non ti preoccupare. Comunque, qualche ascoltatore ti viene a prendere a casa e ti riporta. Non c'è problema. Grazie, Evaristo. Ci fermiamo un istante per il traffico. Poi c'è Daniela da Verona che ha chiamato 800 24 00 24. E poi già ve lo dico, faremo un colpo di telefono a Filippo Volandri, milanista e ovviamente grande esternista, che ci commenterà la finale australiana. Il problema è che gli anti-juventini non sanno più dove attaccarsi, rosicano e piangono sempre di più. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Cerchi un gestionale in cloud? Scarica l'app da fluentis.com e prova gratis per 30 giorni. Vi presenta Tutti Convocati. Adesso salta fuori Ronaldo, 50 gol. Cazzo, gli danno minimo un rigore a partita, minimo, se non due. Li tira tutti lui, immagino che gol li fa. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, niente, io telefonavo per commentare un attimino la partita di ieri. Sì, ma di chi? Solo in questo caso qua. Quale? Il pareggio per noi va bene, abbiamo guadagnato un punto, no, siamo anche contenti. Mi sfugge un pezzo, noi chi? noi del Veronesi, del Verona. Ah, io tengo okay. a Verona, Verona. Ok, ok, abbiamo chiarito il contesto, dica, dica. Niente, noi siamo stati danneggiati ieri e non c'è dubbio su questo, vero? Vabbè, ma non importa. Io volevo segnalare fra i paesi dei giocatori, della squadra, della di dirigenti, non hanno fatto un commento negativo. Fa bene. Quindi va qualcuno bene. Deve imparare, però teniamo a precisare che per noi il VAR interviene solamente per cacciarci fuori i giocatori. È andato così nell'andata, è andato così nel ritorno. Quindi noi non facciamo casino, ma che si sappia, questo è il senso. Che si sappia e basta, ma che qualcuno impari anche, perché è vero che tanti fanno di quelle sceneggiate che mi fanno un po' schifo, a dire la verità. Sì, no? ma adesso al di là delle migliore in campo di Daniela, No, vabbè, ma anche a rigore al Verona, su questo non c'è dubbio, sgratita, te lo faremo vedere, credo che non ci siano grandi dubbi, non ho ancora parlato con Cesare, ma immagino insomma che... Che non ci siano grandi discussioni. Però la signora nota come che si sappia, però che imparino anche il fair play. Voglio dire, l'analisi degli episodi, secondo me, è un'analisi che va fatta, perché il calcio vive di episodi, e perché anche gente, appunto, alla Guardiola, quindi con un'idea di calcio molto alta, molto filosofica, tutto quello che ti pare, poi alla fine della partita, no, anche le formiche nel loro piccolo si incazzano, cioè ci sta questo aspetto. Gli episodi sono fondamentali nel calcio. Poi fare andare sul piano delle guerre di religione di un club rispetto a un altro, o degli anti contro questo non mi piace. No, ma nemmeno me. Sul Milan-Verona di ieri, sicuramente il Milan ha rischiato, il rigore c'era. E poi, tra l'altro, il Verona, al di là dell'aspetto Moviola, ha giocato una buonissima partita, ha colpito due pali anche in 10 contro 11. Comunque, guarda, secondo me, secondo il me pareggio al Verona. So chiamare Volandri, eccolo qua. C'è già, ci sta ascoltando. Buon pomeriggio, sì. Ascolta un po' della forza di Ibra, secondo me, della forza anche mentale di Ibra, della quantità di cose che fa nella partita, ieri secondo me è mancata. Do Ibra no parti. Filippo, non, il tuo Milan ieri non meritava di vincere, e anzi quel pareggio forse sta stretto al Verona. Confermo, al di là che poi gli episodi veramente contano, perché anche il contropiede, che poi alla fine non si è finalizzato, poteva contare alla fine. Però sono d'accordo sul fatto che Ibra, magari anche se non in grandissima forma, soprattutto una difesa come quella del Verona ben organizzata, ieri avrebbe potuto fare la sportellata in aria e creare qualche spazio in più. Quindi alla fine è vero che ieri si è sentita la mancanza. No, vogliono tutti i ragazzini, però alla fine se non hai il grande giocatore di grande personalità eccetera, non riesci nemmeno a far crescere i ragazzi più giovani, secondo me, Filippo. Sì, assolutamente sì, perché ed è ciclico, perché comunque anche nel tennis è così, e il Fognini, volente o nolente, quando fa risultato crea un risultato magari di Berrettini, che è più giovane, insegna a Musetti, che è ancora più giovane, e lo stesso Sinner, guarda caso, viene fuori in un momento in cui il tennis italiano sta andando oggettivamente molto bene, ed è merito di chi a suo tempo, mi ci metto di mezzo anch'io, ha tirato la carretta da solo. Adesso i più grandi creano risultati, i più piccoli vengono a ruota. Bravo Filippo Volandri, Pierluigi, mi sembra sì. Analisi perfetta questa. Ma gli uomini di sport, poi alla fine, no, chi ha vissuto il campo sa benissimo che poi le differenze in campo si vedono, le categorie in campo si vedono, i giocatori speciali fanno la differenza, uno può essere uno sport di squadra, l'altro lo sport individuale, quindi lì magari sono altri dettagli che fanno la differenza, però insomma i meccanismi alla fine sono questi. D'altra parte stiamo parlando con uno che ha record positivo nei confronti di Federer. 1-0 okay. E per fortuna non ci ho più giocato contro, però perché hai fatto bene a non dargli la rivincita, anche se ti propongono un'esibizione, una roba, ma evita neanche a paddle. Senti, invece Djokovic e l'Australia è un discorso quasi banale, quasi scontato, almeno sembra così. Chi vince in Australia l'anno prossimo? Beh, Djokovic. Sembrerebbe proprio di sì, perché se è vero che Roland Garros è casa di Nadal, Melbourne sta diventando casa di Djokovic. Faccio fatica a vedere qualcuno che ancora lo possa spodestare, perché a livello fisico è tornato il Djokovic quello vero. Ha più serenità mentale, e questo gli consente ovviamente di gestire situazioni complicate come ieri. Se noi andiamo a analizzare anche noi del settore, a fine del terzo set, dopo aver preso 6-2, sembrava che non ne avesse veramente più, insomma la partita sembrava indirizzata alla parte di Tim, e invece ha quella capacità di gestire quelle situazioni complicate, anche perché comunque di mestiere ne ha, e l'ha ribaltata, non è la prima volta che lo fa. Poi magari qualcuno potrebbe dire sì, ma dopo ha infastidito Tim perché sembrava veramente si dovesse ritirare da un momento all'altro, invece di energia ne aveva ancora. E quello comunque fa parte del mestiere, trucchi del mestiere da mettere la borsa, di avere gli strumenti per poter gestire quelle situazioni. A me sembra un atleta spaventoso, cioè mi sembra che la grande differenza soprattutto su certe superfici sia proprio atletica. D'altra parte l'altro giorno ero con Sasha Georgievic proprio a Sky e lui diceva è il più grande atleta serbo jugoslavo ogni epoca. Sì, ed è forse il più grande atleta del tennis degli ultimi 20 anni, perché Nadal ha un tennis molto faticoso che poi lo costringe anche a ritirarsi per determinati periodi per poter recuperare da infortuni. Lui, se i grossi infortuni non ne ha avuto elasticità muscolare fuori dal comune, un'esplosività fuori dal comune, ma non è solo fisico, perché lui è diventato anche tanta testa, è uno di quelli che riesce a giocare contro Federer nel centrale di Wimbledon, e quando su 40.000 persone ce ne sono 39.990 che ti tifano contro, lui la trasforma in energia positiva, e questo lo sa fare solo il grande campione. Poi ha tanta testa perché è tattico, certo, ma poi ne ha passato tante difficoltà e mi sembra che da quelle sia uscito più forte, come fanno davvero quelli grandi. Grazie Filippo, ti abbraccio, ci vediamo presto anche con te Pierluigi Parro, ci vediamo presto, anzi io ti vedo stasera a Tiki Taka. Claudia Schiattone la vedo tutti i giorni, così come Gianmarco Ferronato, ma li saluto, ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy, saluti.